strada senza un perché, sento un vuoto in fondo all'anima e non so ancora che cos'è, forse qualcosa che non c'è, quello che cerco nella vita mia. Tutto quello che vorrei, forse ancora non l'ho detto mai. Tutto quello che farei è nascosto ancora nei sogni miei. Quello che darei, forse ancora non l'ho dato, sai. Tutto quello che sarei, forse nulla senza gli occhi tuoi. La mia vita è ancora qua, sull'asfalto, su un percorso da scoprire. Senza un perché, sento un vuoto in fondo all'anima e non so ancora che cos'è, forse qualcosa che non c'è, quello che cerco nella vita mia. Tutto quello che vorrei, forse ancora che io cerco forse già c'è.